Esercizio 2. Ascolta e ripeti ciascuna coppia dell'esercizio 1 da sinistra a destra e successivamente ascolta e ripeti le coppie da destra a sinistra. Roseto, rossetto. Abate, abbatte. Amica, ammicca. Amaca, ammacca. Alata, allatta. Aceto, accetto. Comete, commette. Asilo, assillo. Rossetto, roseto. Abbatte, abate. Ammicca, amica. Ammacca, amaca. Allatta, alata. Accetto, aceto. Commette, comete. Assillo, asilo.